Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e come promesso siamo in diretta da Trento, da Piazza Pasi per essere precisi, dove è in corso la seconda giornata del Festival dell'Economia Sovranità in Conflitto, ottava edizione. Ne parleremo con vari ospiti in una giornata particolarmente densa per quello che riguarda la cronaca di notizie economiche più che finanziarie oggi, perché c'è un dato drammatico, lo dico subito, sulla disoccupazione che riporta questo paese indietro al 1977 come tasso di disoccupati, sia i disoccupati tutti che e soprattutto i disoccupati giovani, che hanno toccato ormai il 40% di chi ha tra i 15 e i 24 anni. Dico il 1977 per un semplice motivo, perché è da allora che abbiamo le serie storiche. In realtà non sappiamo se un dato così brutto non vi fosse dal 1971, dal 1968. Sappiamo solo che da quando misuriamo la disoccupazione non c'era mai stato un livello di disoccupazione come quello attuale. Questa è la prima notizia buona, si fa per dire. La seconda invece riguarda l'intervento, le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Come ogni 31 maggio il governatore, mi riferisco al governatore Visco, Ignazio Visco, ha tratto le sue considerazioni finali, ha parlato molto anche di politica, un po' meno di vigilanza bancaria, del rapporto tra fondazioni bancarie e banche. E le fondazioni, ha chiesto Visco, non intervengono nella gestione ordinaria delle banche, e lì è sembrato di sentire qualche richiamo a vicende senesi, ma non solo. E poi chiaramente parleremo di questo, ma parleremo anche del, come sempre, dei mercati finanziari. Oggi la giornata è debole ma non drammatica, meno 0,70% Milano, meno 0,40% Parigi e per quello che riguarda Francoforte il calo dello 0,12%, gli Stati Uniti guadagnano invece lo 0,36%. Tra i titoli pesante il calo di Telecom Italia dopo il via libera esplorativo, chiamiamolo così, alla separazione dalla rete. Telecom perde il 5,82%, Ansaldo STS perde il 4,30%, il Banco Popolare il 3,5%, Mediolanum il 3,30%, la Popolare di Milano il 2,20% come Finmeccanica. Chi guadagna invece? Fiat più 3,5%, l'Automatica più 1,60%, Monte dei Paschi più 1,50%, Pirelli più 1,30% come Diasorin. Il numero per intervenire come sempre è quello per i vostri sms 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Chiaramente parleremo anche del Consiglio dei Ministri, delle misure annunciate a partire anche dal bonus casa e, come i nostri GR vi hanno ampiamente ricordato, dal disegno di legge approvato oggi dal Consiglio dei Ministri per abolire gradualmente il finanziamento pubblico ai partiti. Le notizie in breve. Parlavamo del Premier Enrico Letta che oggi, dopo il Consiglio dei Ministri, ha anche incontrato il Presidente del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy, il quale ha detto che il calo degli spread dimostra che la fiducia dei mercati sta tornando e la minaccia esistenziale per l'area euro è superata. Come dire, non rischiamo più di morire, da lì a dire che il paziente stia bene io avrei i miei dubbi, però insomma non voglio darmi il gufo, autoassegnarmi il gufo oggi. Sempre Van Rompuy ha detto che adesso è fondamentale mantenere la rotta perché siamo di fronte al momento più difficile, quindi la minaccia esistenziale è superata, ma siamo di fronte al momento più difficile, la fase intermedia. Occorre essere costanti nell'impegno tenendo la rotta concordata dai leader. Il tutto però, come dicevo, si inserisce in un dato che adesso racconteremo sulla disoccupazione, ma dal Consiglio dei Ministri vorrei far ascoltare invece cosa ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi, perché il Consiglio dei Ministri oggi non solo ha approvato la legge per abolire gradualmente il finanziamento pubblico ai partiti e a regime gli unici canali di finanziamento saranno le erogazioni volontarie che avranno detrazioni del 52% per gli importi tra i 50 e i 5.000 euro e del 26% per tutti gli altri importi fino a un massimo di 20.000 euro e poi la concessione gratuita di spazi anche TV e servizi. Ma dicevo, è stato prorogato anche il bonus fiscale per l'edilizia. Gli sgravi fiscali saranno del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per gli ecobonus, come ha spiegato appunto il ministro Maurizio Lupi al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Sulle ristrutturazioni è assicurata solo da tagli e c'è una compensazione ristrutturazione e mobili, perché questo sarà un segnale fortissimo che daremo con autocoperture interne al Ministero delle Infrastrutture, quindi non c'è assolutamente necessità, ma complessivamente non aumenteremo nessuna pressione fiscale su nessuno, perché questo è il nostro principio. Cioè, lo scopo generale è uno solo: da una parte dare uno shock e rilanciare i consumi nel nostro paese attraverso due obiettivi che sono condivisi da tutti. Primo, rinnovare e riqualificare le abitazioni nel nostro paese, le ristrutturazioni attraverso non più solo anche la filiera, che ovviamente è legata alle ristrutturazioni e qui l'inserimento dei mobili. Il secondo, segnalare che tutto questo deve avvenire attraverso un miglioramento dell'ambiente. Il fatto che si passi dal 55% al 65% indica la strada prioritaria che si vuole seguire. La differenza tra ristrutturazioni e ecobonus diventa di 15 punti, siamo arrivati al 65%, quindi mi sembra che entrambi i provvedimenti siano un segnale fortissimo. E veniamo al dato più serio, drammatico, non mi piace come parola, ma è drammatica la situazione. Insomma, ci troviamo con il 40,5% di disoccupazione nel mese di aprile nel nostro mezzogiorno. Conosco già l'obiezione, c'è il lavoro nero, ho capito, però questi sono i dati ufficiali dell'Istat e su questi ci basiamo. In cerca lavoro sono al sud 656.000 ragazzi, appunto il dato più brutto dal 1977, che fa il paio con il dato complessivo. 12% di disoccupazione ad aprile, record dal 1977, sono praticamente il numero di persone che in Italia cerca lavoro sono 3.083.000, uno 0,7 più rispetto a marzo e soprattutto un dato di un punto percentuale più alto rispetto a un anno prima. Devo dire che anche questo si vede a livello europeo, dove la disoccupazione ha toccato un nuovo record da quando esiste l'area dell'Unione Europea. Siamo al 12,2% contro l'11,2%, un punto, più di un punto percentuale in un anno. E da qui partiamo anche per ragionare su come siamo finiti così in basso, no? Mio Dio, come sono caduto così in basso, era il titolo di un film una volta. Io qualche idea ce l'ho, però sentiamo il Premier Letta su questo, dire che in assoluto resta la priorità e le misure per l'occupazione giovanile si potranno ottenere anche stando dentro la soglia del 3% del deficit sul PIL, quella famosa, superata la quale scatta la procedura per infrazione. Noi metteremo in campo un piano nazionale, questo piano nazionale contro la disoccupazione giovanile lo metteremo in campo prima del Consiglio europeo, perché riteniamo che questo dia più forza all'impegno che poi in Consiglio europeo i 27 Paesi membri e la Commissione metteranno per arrivare a dei risultati concreti, positivi e immediati, non dichiarazioni generali, non impegni astratti, ma risultati concreti. E infine ho espresso tutta la soddisfazione italiana per l'uscita dell'Italia dalla procedura di deficit eccessivo che abbiamo ottenuto mercoledì scorso nelle decisioni che la Commissione europea ha preso. Per noi italiani è stato un grande risultato dovuto allo sforzo di tutti gli italiani, allo sforzo dei precedenti governi, in particolare quello presieduto da Mario Monti. È uno sforzo quello di stare dentro le regole di bilancio che continueremo con grande impegno, e quindi anche tutti gli impegni su questo tema della disoccupazione giovanile contro la quale vogliamo lottare li prenderemo dentro le regole di bilancio che ci siamo dati. Sì, dentro le regole di bilancio, vorrei capire anche come, perché mi sa che ci avvicineremo anche l'anno prossimo al 3%, e ne parliamo con chi da sempre scrive anche e soprattutto di mercato del lavoro, insegna economia all'Università Bocconi di Milano, ma è anche il responsabile scientifico del Festival dell'Economia Trento, il professor Tito Boeri. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Beh, insomma, Nell'immaginare la sua presenza qui non immaginavo che cascasse così a fagiolo, diciamo avrei volutamente e piacevolmente evitato di commentare questi dati. Faccio notare una cosa, che prima dello scoppio della crisi noi venivamo da 8, 9, forse 10 anni di cali continui nella disoccupazione, avevamo toccato il 7.8, se vado a memoria. In 4 anni di crisi, dal 2008 al 2012, ci siamo bruciati 10 anni di calo della disoccupazione, ma siamo andati anche oltre, nel senso che siamo tornati al 77. Ora io capisco che c'è la crisi, capisco che l'economia europea soprattutto è in stagnazione / recessione, che la crisi ha colpito anche le economie mondiali fino al 2009-2010, ma qui mi sembra che abbiamo esagerato, cioè siamo andati oltre il dovuto. Io capisco mangiarsi 10 anni, capisco meno mangiarsene quasi 30, diciamo 25 anni. Come abbiamo fatto a finire così in basso, Boeri? C'è qualcosa di più sicuramente della crisi? Beh, c'è innanzitutto la natura della crisi, questa è una crisi finanziaria, le crisi finanziarie sono sempre molto pesanti per l'occupazione, ma di più non abbiamo fatto le cose giuste sul mercato del lavoro. Io credo che il dato di oggi più preoccupante è quello che riguarda la disoccupazione giovanile in rapporto alla disoccupazione per tutte le altre fasce di età. Oggi l'Istat ha decretato che i giovani hanno un'incidenza della disoccupazione che è 4 volte quella per le altre fasce di età. Non c'è altro paese dell'Ocse in cui ci sia una situazione così sfavorevole rispetto ai giovani. Io credo che sia anche il portato del fatto che la riforma del mercato del lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso ha bloccato di fatto le assunzioni. Si è parlato moltissimo dei licenziamenti, in realtà quella riforma ha bloccato i pochi canali di assunzione che erano ancora aperti, e questo chiaramente ha avuto come principali vittime i giovani. Quindi bisogna assolutamente intervenire su questo aspetto. Io trovo che sia molto importante che il governo dica cosa intende fare in tempi abbastanza rapidi, perché se riduciamo l'incertezza delle imprese questo servirà anche, perché una parte di questo blocco delle assunzioni è legata all'incertezza normativa. Ecco, Boeri, mi faccia capire, lei sta dicendo che al di là dell'effetto complessivo della crisi, da noi la situazione è peggiorata ulteriormente per una riforma, quella Fornero, che ha avuto effetti controproducenti, boomerang, esiziali, cioè non per l'atteggiamento dell'Unione dell'area euro, a mio avviso troppo giocato sull'austerità, ma soprattutto per una legge interna al paese? Io dico, innanzitutto chiamiamola legge 92. Dico che c'è stata la crisi che è stato il fattore scatenante, ma abbiamo visto che in aggiunta alla crisi c'è stato un effetto in più, perché da luglio del 2012 abbiamo visto che alcune tipologie di assunzioni sono calate in modo vertiginoso, alcuni addirittura hanno dei contratti che continuavano a salire, c'è stata proprio una discontinuità. Oggi lo certifica anche la stessa Banca d'Italia, nella relazione della Banca d'Italia c'è un grafico, noi avevamo ripreso la stessa cosa sulla voce qualche settimana fa. Beh, per esempio, non so, il lavoro a chiamata è una tipologia contrattuale che stava crescendo, e poi uno può dire giusto o sbagliato, perché sono chiaramente delle forme di precariato, di abuso di figure contrattuali improprie, ma in ogni caso creava del lavoro, bisognava trovare un canale alternativo, questo la riforma non l'ha fatto. E quindi, mi scusi se insisto, pesa di più una riforma diciamo sbagliata con degli elementi forti di debolezza che non un'Europa che continua in questo momento. Non ho detto questo, penso che puntare solo sull'austerità, diciamo con un accento un po' tedesco? No, sicuramente l'Europa conta tantissimo, il fatto che la crisi finanziaria vada avanti, e difatti di questo che stiamo discutendo in questi giorni è la causa scatenante. La riforma che è stata fatta l'anno scorso non aiuta, anzi peggiora qualcosina la situazione, non so di quanto, potrei dirlo 0,1, lo 0,2, però certamente è qualcosa che non va nella direzione giusta. Una riforma avrebbe dovuto cercare un po' di tamponare la situazione. Ma su questo devo dire che lo stesso ex ministro Fornero qualche responsabilità l'ha messa ai nostri microfoni. Detto ciò, però, immaginiamo che domani il governo Letta metta mano alla riforma Fornero, alla legge a cui lei faceva riferimento, modifichi quella capacità che ha avuto, ahimè, di irrigidire l'ingresso nel mondo del lavoro senza flessibilizzare l'uscita, e sistemiamo questa parte. Che cosa mancherebbe a quel punto? Perché io penso che comunque, finché non facciamo le politiche di agevolazioni fiscali per chi assume, e anche, è un mio tarlo, lo so, lo dicono anche gli ascoltatori, di finanziamenti infrastrutturali non alle grandi opere, ma alle piccole opere dei comuni, degli enti locali, magari che sono a metà compiute, non sblocchiamo un po' di soldi del patto di stabilità interno dei comuni che, virtuosi, che li hanno, da questo cul-de-sac, che non è una brutta parola, non usciremo più. però vorrei sentire la sua di opinione. Io credo che tutte le risorse disponibili, che sono davvero poche, devono essere oggi utilizzate per ridurre la pressione fiscale sul lavoro. La chiusura della procedura per disavanzo eccessivo non ci dà dei margini in più per il 2013, ce ne dà forse qualcuno in più per il 2014, ma per il 2013 noi dobbiamo sapere che dobbiamo stare sotto al 3%. Questo significa che se noi oggi andiamo a fare un'operazione IMU molto importante, cioè diamo 4 miliardi per abolire quella tassa, non avremo probabilmente margine per fare alcunché sul versante mercato del lavoro. Quindi questa è una responsabilità, sarebbe gravissimo in questo momento, con le cifre della disoccupazione, con circa 9 milioni in condizioni di disagio occupazionale in Italia, non intervenire prioritariamente sul mercato del lavoro. Ecco, un'ultima domanda, professor Boeri, perché di questo poi si sta parlando in questi giorni a Trento, perché quando voi titolate un festival Sovranità in conflitto, è chiaro che andiamo a ragionare, come si diceva ieri con Alessandro La Terza, tra un'economia globale, e quindi tutti esposti agli stessi eventi, e però decisioni molto nazionali, come abbiamo visto anche nel caso dell'area euro, in cui, parliamoci chiaro, ogni paese ha fatto quello che riteneva più logico nel suo interesse, Germania, l'Olanda finché ne andava bene, poi adesso anche l'Olanda qualche problema ce l'ha, e rendendo più fragile l'Europa del Sud, che aveva e ha dei suoi motivi di fragilità, ma a mio avviso gli studenti cattivi non vanno espulsi, vanno mandati a fare le ripetizioni, ma non umiliati ed espulsi. Che cosa sta emergendo da questi due giorni di festa su questi temi, anche perché voi avete molti economisti americani che sono critici su questa impostazione tutta austerità e tagli dell'Europa? Ma direi che c'è una risposta a quello che diceva oggi Van Rompuy, cioè sarà vero che la crisi più acuta del debito pubblico è stata in parte superata, però di questo le famiglie e le imprese non sembrano minimamente avere alcun beneficio, perché hanno la stessa difficoltà che avevano prima nell'accedere ai mutui, nel poter in qualche modo finanziarsi. Le piccole imprese sono sempre in questa condizione di stretta creditizia pesantissima, quindi c'è qualcosa che non va. Siamo nel mezzo di questo guado e dobbiamo decidere. Probabilmente le risposte che sono venute sin qui sono che dobbiamo continuare sulla strada dell'integrazione politica ed economica, anche politica, perché è chiaro che non possiamo avere una tecnocrazia, non possiamo avere l'imperatore Draghi che decide per noi, abbiamo bisogno di avere persone che rispondono politicamente e sono sotto il controllo democratico degli elettori, che possono prendere decisioni. Dobbiamo mutualizzare parte del debito, dobbiamo costruire delle agenzie per la gestione del debito, dobbiamo stabilire dei nuovi meccanismi di risoluzione, dobbiamo intervenire sulle banche che sono troppo grandi per spezzettarle, perché altrimenti diventano troppo potenti. Sono tante cose state dette oggi, credo nei prossimi giorni ci saranno anche voci che dicono torniamo indietro, ma io spero che alla fine prevarrà nel senso di tutti, perché tornare indietro sarebbe a mio giudizio davvero catastrofico. Allora Boeri, nel salutarla, perché so che lei ha molti appuntamenti, le giornate vanno avanti, anche oggi la saluto con una battuta di un nostro ascoltatore, per cui il copyright non è mio. Siccome ho definito un cul-de-sac quello in cui ci siamo ficcati, dice l'ascoltatore, per uscire dal cul-de-sac ci vorrà un sac de cul. Non è un grandissimo francesismo, però vista la giornata, grazie al professor Tito Boeri. Noi invece torniamo a parlare, visto che si parla di compiti a casa, dei compiti che non stiamo facendo, le opere irrealizzate oggi non ce l'abbiamo con le regioni e i comuni, ma direttamente con lo Stato italiano. Sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu. Allora, preparate ampie dosi di Malox sto giro, perché era due giorni che non tornava al nostro appuntamento, qualcuno già tirava un respiro di sollievo, in realtà non è così. Allora, oggi parliamo dello Stato nazionale, non delle regioni, dei consigli regionali, delle spese per la politica, perché ci sono 40 opere inutili, inutili non nel senso che non siano necessariamente utili, ma inutili perché non finite, non realizzate, ecco quando intendo dire gli investimenti anche sul territorio. Complessivamente sono 2 miliardi di euro dal nord al sud. Partiamo dalla diga di Pappadaia, Monteparano, Taranto, 370 milioni di euro per realizzare la più grande opera idraulica del dopoguerra, ovviamente mai entrata in funzione. E da Taranto a Matera, dove c'è la nuova stazione ferroviaria, è costata 300 milioni di euro. Questa è bellissima. Mi date una maiella, per favore, da Milano, perché non ce la faccio fare con... Se mi sentite, un tango della maiella, perché qua... Vai. Allora, dicevo, a Matera la nuova stazione ferroviaria è costata 300 milioni di euro. Dici, bene. Ma è inutilizzata. Perché è inutilizzata? Manca l'approvazione di un comma? No. Manca l'agibilità? No. Mancano i binari. So che è un dettaglio, già commentammo i binari mancanti nei tram a Palermo, però mancano i binari per collegarla alla rete ferroviaria, quindi una stazione senza binari tende a essere una stazione poco utilizzata. Vabbè, intanto alla Maddalena, a Olbia, sono in completo abbandono le strutture realizzate per ospitare il G8 del 2009, che poi fu spostato all'Aquila. Costo complessivo di queste strutture, che lì nella Maddalena guardano il mare della Sardegna solitarie e depresse, 330 milioni, ma sono meno di quanto è costato l'interscalo di Cervignano in provincia di Udine, 480 milioni di euro per lo scambio merci, è utilizzato al 15%, complimenti. A Scandicci lo Stato, provincia di Firenze, il mostro di Scandicci, lo Stato ha speso 62 milioni di euro per costruire il Palazzo delle Finanze da 28.000 metri quadrati, deve essere bellissimo, devo dire, deve essere bellissimo, perché non è ancora aperto e quindi boh, un mistero cosa ci sia dentro, 28.000 metri quadrati. Palazzo delle Finanze poi si chiama. Figurati se lo chiamano Palazzo dello Spreco. A Val Fabbrica, provincia di Perugia, 190 milioni spesi per costruire una diga mai entrata in funzione ed oggi in completo abbandono. A Cesana Pariol, provincia di Torino, 77 milioni per la pista da bob utilizzata solo per le Olimpiadi invernali e poi abbandonata, ma il bob col tempo che fa. E poi 8 milioni di euro per i parcheggi di Via Emilia a Palermo, sempre deserti perché troppo lontani dal centro, 10 milioni di euro per l'ospedale di Gerace Locri, che non ha mai visto un paziente. Per favore, qualcuno si ammali nella provincia, giustifichiamo questo ospedale, 10 milioni. 5 milioni di euro per il terminal crociere del porto di Cagliari, mai utilizzato, perché anche qui è un po' come i binari a Matera, perché l'hanno costruito su un molo dove il fondale non è abbastanza profondo per le navi da crociera. Anche qui sono dettagli, non è che quando uno fa un'opera può vederla tutta, tutta perfettamente giusta. In un caso mancano i binari alla stazione, qui il fondale è troppo basso e le navi da crociera si arenano, cioè arrivano ma poi non riescono a riuscire. E poi 30 milioni di euro per la piscina di Valco San Paolo a Roma, mai aperta. E 9 milioni di euro dello svincolo stradale di Desio Monza, che finisce in un terreno agricolo perché la strada a cui doveva collegarsi non è mai stata realizzata, quindi ottimo per andare in camporella ma poco utile per il traffico della Lombardia. Meteo, pubblicità e poi andiamo dal governatore della Banca d'Italia Visco e delle sue raccomandazioni. Minuti di nuovo in diretta da Trento, da Piazzetta Pasi, Piazza Pasi, con Sebastiano Barisoni per questa edizione del Festival dell'Economia. E allora, dopo aver letto queste simpatiche notizie su stazioni ferroviarie senza binari e porti senza fondali, e adesso arriviamo subito alla borsa, poi ascoltiamo il governatore Visco e poi andiamo anche sui temi generali del Festival. Devo dare però ancora un paio di notizie che riguardano la Fiat, sono propedeutiche comunque alla borsa, perché l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne ha confermato gli impegni per il paese nel corso dell'incontro questa mattina con il ministro allo sviluppo economico Flavio Zanonato, un incontro che è andato benissimo, così ha detto Marchionne entrando alla Banca d'Italia per ascoltare le considerazioni finali del governatore. E tra l'altro Zanonato ha concordato con Fiat che l'italianità di Fiat è un valore aggiunto, ora ci sarà un lavoro congiunto per il rilancio del settore auto. Chissà se è per questo che Fiat ha guadagnato il 3,30% in borsa, miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. C'è l'operazione Chrysler in realtà sullo sfondo, bene anche l'automatica più 2,50%, male invece Telecom Italia più meno 5,80% e Ansaldo meno 4,30%. E allora facciamo la borsa con un euro a quota 1,29,64. Ciao Condina, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, meno 0,80% Milano, meno 1,20 Parigi, un peggioramento nel finale oggi, meno 0,50 Francoforte, Madrid meno 1,34, l'America guadagna invece lo 0,25%. Telecom Italia, il giorno dopo il via libera esplorativo allo scorporo della rete fissa, e da un lato, e dall'altro Fiat. Eh sì, oggi giustamente dicevi tu, c'è stato un peggioramento, in realtà le borse già perdevano circa l'1% a metà seduta, poi c'è stato questo dato sulla fiducia dei consumatori americani misurato dall'Università del Michigan che si è attestato addirittura ai massimi da luglio 2007, che ha rivitalizzato Wall Street e con esso anche le borse europee che avevano dimezzato le perdite, ma poi nel finale appunto questa nuova avvitarsia dei listini che hanno chiuso sui minimi. Per quanto riguarda Telecom perde il 5,8%, non è il primo giorno che questo titolo affronta le vendite, anzi c'è un'evidente incertezza per quanto riguarda la valutazione di quella che sarà la rete fissa che verrà scorporata, come è stato deciso nei giorni scorsi dal Consiglio di amministrazione. Per esempio oggi il Financial Times indicava una valutazione attorno a 14 miliardi di euro, è chiaro che questo sarà oggetto di valutazione nelle prossime settimane e da esso poi dipenderanno poi tutti i dati, insomma, che gli aggiustamenti che seguiranno nell'operazione stessa. Per quanto riguarda Fiat invece, come giustamente ricordavi tu, l'attenzione del mercato è tutta su quella che sarà la fusione con Chrysler, delle eventuali sinergie, degli eventuali risparmi di costi che poi si ottengono tramite queste operazioni. C'è oggi chi lega questo rialzo ulteriore del 3,3% all'inquale a buon esito dell'incontro tra il ministro Zanonato e Marchione, ma sicuramente questo rally ha delle origini dalle scorse settimane e non può essere legato esclusivamente a quanto avvenuto oggi. No, certo, è chiaramente la vicenda Chrysler. Del resto, tra i titoli oggi, male anche Ansaldo e CTS, meno 4,30%, le banche così e così è, il Banco Popolare ha perso il 3,80%, la Popolare di Milano il 2,60%, l'Emilia Romagna ha perso l'1,80%, ma Intesa San Paolo ha guadagnato lo 0,20%, Unicredito lo 0,55%, il Monte dei Paschi l'1,5%. Su Ansaldo molto debole la seduta, trascina con sé anche Finmeccanica meno 2,40%. Eh sì, assolutamente, c'è, come sappiamo su Finmeccanica c'è, sono rinvii, incertezze sui vertici, Ansaldo già ieri era andata molto male, ovviamente poi con tutte queste incertezze, queste incognite, questi punti interrogativi si riflettono sulle quotazioni dei singoli titoli. Dei bancari ho già detto, però c'è un titolo oggi che si era ben mosso e mi riferisco a UbiBanca, poi invece ha ritracciato? Eh sì, guadagnava più dell'1%, poi ha ritracciato, ha chiuso poco sotto la parità, meno 0,17%, comunque meglio dell'indice di tanti altri titoli bancari. Qui cos'è che è inciso su questa performance? Quanto annunciato ieri sera dall'istituto, che rimborserà in contanti il bond convertibile da 640 milioni di euro che scadrà il prossimo 10 luglio. In generale sul mercato c'è comunque maggiore ottimismo su quelli che sono i conti, su quelle che è il trend di UbiBanca, e anche ieri ricordiamo che il titolo aveva ben performato, era stato addirittura il migliore del listino con un rialzo superiore a 3 punti percentuali. Debole oggi anche Mediolanum, meno 3,46%, Enel meno 1,88%, TOZ meno 1,60%, Fiat Industrial, quindi camion e trattori meno 1,5%, Saipem meno 1,30%, Exor meno 1%, come Fondiaria Assai. Bene invece, oltre a Fiat, anche l'automatica più 2,5%, novità sull'automatica? Scusa, è l'automatica? No, non particolare. Di Assorin più 1,60%, Monte dei Paschi diciamo più 1,50% e Pirelli più 1 punto percentuale. Tra i migliori e i peggiori, Monriff più 8,90%, Movimax più 8,41%, Gruppo Mutui Online più 6,70%, Ahold Con più 4,43%, Poligrafici Printing più 4,34%. Fronte opposto invece il Rizzoli Corriere della Sera meno 10%, qui c'è stato un effetto forte anche delle frizioni, chiamiamole così, ieri per l'aumento di capitale. Eh sì, vabbè, ieri aveva comunque guadagnato, però erano state le risparmie. Oggi evidentemente, per quanto riguarda le azioni ordinarie, comunque si continua a prendere atto di una situazione che non ha nulla di definitivo, e adesso bisognerà vedere effettivamente quali saranno le adesioni all'aumento e per quanto e come questo aumento potrà dare ossigeno a un business che purtroppo è in perdita. E poi risanamento meno 6,75%, Edes meno 6%, Telecom Italia ordinarie meno 5,80% e appunto il Banco Popolare Ansaldo l'abbiamo già dato. Grazie a Ceo Condine, buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Colli sulle 24 ore. Dico i suggerimenti che stanno arrivando su opere incomplete, non vorrei avere aperto una diga, visto che anche di dighe parliamo. C'è chi mi segnala, dov'è che l'ho persa? Adesso la ritrovo. Beh, l'aeroporto di Comiso, un gioiellino inutilizzato, e poi c'è un paziente dell'ospedale Gerace Locri, l'hanno salvata dalla sordità, complimenti, quindi. Almeno un utilizzatore c'è stato. 200 milioni per l'ospedale di Biella che è finito, ma la regione non ha i soldi per il trasloco. Io leggo quello che voi scrivete, ma ce n'era una bellissima che devo assolutamente ritrovare. Eccola qua, forse. In Val d'Aosta, 30 milioni per la galleria Cogne, pile inutilizzata perché non ci passa il trenino. No, ma c'è un aeroporto di Osimo senza compagnie aeree, inaugurato senza compagnie aeree, ma anche questi sono dettagli. Non si può pretendere che un aeroporto abbia anche gli aerei e una stazione anche binari. Per favore, siete un po' oggi tignosi, eh? Ah, eccola qua, a Villa Potenza, Macerata. Un bel ponte fatto sul fiume Potenza che finisce nel nulla. Io spero che almeno sia bloccato, perché è brutto finire nel nulla quando termina un ponte. Non posso fare la puntata però sulle opere inutilizzate, ma continuate a segnalarle. Andiamo invece dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha detto: dalla recessione c'è un rischio sulla coesione sociale. Anche da certe notizie che leggiamo c'è un rischio per la coesione sociale. L'inversione dell'economia verso fine anno sarà possibile, anche se quest'anno chiuderà con un forte calo della produzione e dell'occupazione. In Italia la debole ripresa seguita alla crisi finanziaria globale si è interrotta nella seconda metà del 2011, quando le tensioni hanno investito il nostro mercato dei titoli di Stato. Si è innescato un circolo vizioso tra le condizioni del debito pubblico, delle banche e del credito dell'economia reale. L'anno scorso l'attività economica si è contratta del 2,4%. Anche quest'anno si chiuderà con un forte calo dell'attività produttiva e dell'occupazione. L'inversione del ciclo economico verso la fine dell'anno è possibile. Dipenderà dall'accelerazione del commercio mondiale, dall'attuazione di politiche economiche adeguate, dall'evoluzione positiva delle aspettative e dalle condizioni per investire, dalla disponibilità di credito. La recessione sta segnando profondamente il potenziale produttivo, rischia di ripercuotersi sulla coesione sociale. Vabbè, e fin qua già lo sapevamo. Cosa chiede il governatore della Banca d'Italia? Visco chiede di non perdere vigore nelle riforme, colpa anche dei politici, ma ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo dell'intervento, delle relazioni, considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia come ogni anno il 31 maggio. Le riforme hanno perso vigore, dice il governatore della Banca d'Italia, per colpa anche dei politici. L'azione di riforma ha perso vigore nel corso dell'anno passato, anche per il progressivo deterioramento del clima politico. Nel riprenderla con decisione, come ci incoraggia a fare anche la Commissione europea nelle raccomandazioni che accompagnano la proposta di chiusura della procedura per i disavanzi eccessivi, è indispensabile seguire un approccio organico che fissi subito gli obiettivi in un orizzonte di medio periodo. Le riforme di struttura richiedono tempo, possono essere attuate in sequenza, purché definite in un quadro complessivo che ne renda immediatamente chiari le finalità, le implicazioni, i benefici. Un programma credibile può incidere da subito sulle aspettative, eliminando le incertezze e favorendo la fiducia degli investitori, le prospettive di occupazione e di reddito, soprattutto dei giovani, che oggi stentano a immaginare un futuro nel nostro Paese. E te credo che stentino a immaginare i giovani un futuro nel nostro paese con la disoccupazione che stavamo commentando a record dal 1977. Delle volte, cioè, per carità, il governatore della Banca d'Italia è un'istituzione, però anche leggermente svecchiare il linguaggio, no? Stentano a immaginare un futuro. Governatore, abbiamo il record dal 1977, da quando esiste la serie storica, di disoccupati giovani, al 40%, al 50% al sud. E adesso però bisogna pianificare, dice il governatore della Banca d'Italia, il calo delle tasse e privilegiare il lavoro. Riduzioni di imposte, necessarie nel medio termine e pianificabili fin d'ora, non possono che essere selettive, privilegiando il lavoro e la produzione. Il cuneo fiscale che grava sul lavoro frena l'occupazione e l'attività d'impresa. L'evasione distorce l'allocazione ai fattori produttivi, causa concorrenza sleale ed ostacola la crescita della dimensione delle imprese, aumenta il carico tributario per i contribuenti in regola. Va contrastata anche nella dimensione sovranazionale. Un contributo importante a migliorare la correttezza fiscale può derivare da interventi di semplificazione e razionalizzazione delle imposte e degli adempimenti. La certezza delle misure fiscali e il loro attento ed equilibrato disegno possono incidere sulle aspettative, quindi sulla domanda, più e meglio di sgravi immediati, ma dall'incerta sostenibilità. Ora, uno dirà, ma nella considerazione finale del governatore della Banca d'Italia, oltre giustamente alle indicazioni alla politica, avrà parlato il governatore della Banca d'Italia anche del ruolo della Banca d'Italia, cioè del controllo del mondo bancario? Sì, ma non tantissimo, diciamola tutta. Su 20 paginette la parte che riguarda l'attività di vigilanza. Ora, le banche centrali non fanno più il lavoro che facevano una volta nell'area euro, perché i tassi di interesse li muove la BCE, la Banca Centrale Europea. Gli è rimasto solo, per ora, finché non cambiano le regole, il controllo, quindi la vigilanza del mondo bancario. Siccome, se non ricordo male, in questo paese c'è stato un problema con una banca senese che, se non ricordo male, si chiama Monte dei Paschi di Siena, che, se non ricordo male, ha avuto 4 miliardi di aiuti dallo Stato perché sennò era in ginocchio, non per colpa degli attuali vertici, ma per quello che sono mangiati, secondo le accuse della procura, e hanno rubato i vecchi vertici, tra cui l'ex presidente dell'ABI Giuseppe Mussari, forse un riferimento, forse anche all'attività della Banca d'Italia ce lo saremmo atteso, ma Visco ha detto che la Banca d'Italia ha svolto la sua attività di vigilanza in maniera incisiva e ha evitato rischi, al che uno si chiede che cosa sarebbe successo, visto che ci siamo già beccati in Monte dei Paschi, e ha chiesto che le fondazioni bancarie non condizionino le scelte gestionali delle banche, però lì, insomma, la Banca d'Italia può intervenire anche come moral suasion. E anche qui un riferimento va a Siena, perché il ruolo della Fondazione Monte dei Paschi è un ruolo molto attivo, non semplicemente di chi deve distribuire soldi sul territorio per mostre, musei e convegni o opere di bene. Ha chiesto che i soci delle banche rinuncino alle cedole e diluiscano le quote, e poi ha detto però attenzione, sul Monte dei Paschi la Banca d'Italia ha operato con correttezza, impegno e attenzione nei limiti dell'ordinamento, siamo aperti alle osservazioni costruttive. Sì, le osservazioni possono essere costruttive, anche un po' di autocritica delle volte nella vita, lo dico a tutti, anche al sottoscritto non guasta. Se hai operato con correttezza, impegno e attenzione, che osservazioni ti posso fare? Abbi pazienza. Comunque, continua il governatore della Banca d'Italia, il successo del piano del Monte dei Paschi dipenderà anche dall'economia. Grazie. E dimostriamo di sapere uscire o no dalla crisi, no a cali di tensione, continua il governatore Visco, che dice non dissipare il frutto della fine della procedura per deficit eccessivo. Noi italiani, fin dall'inizio tra gli artefici della Costituzione europea, dobbiamo mostrare di saper uscire dalla grave condizione in cui siamo caduti. Lavoro che viene meno e non si crea, imprese che non riescono a modernizzarsi, a finanziarsi, che chiudono, banche indebolite prima dalle tensioni sul debito sovrano, poi dagli effetti della recessione, fra le quali rischiano di emergere situazioni problematiche. I rappresentanti politici stentano a mediare tra interesse generale e interessi particolari. I cittadini ne ricevono segnali contrastanti e incerti. Le riforme non possono essere chieste sempre a chi è altro da noi. Tutti dobbiamo impegnarci, imprese, lavoratori, banche, istituzioni. Un bilancio pubblico in equilibrio, al di là delle contingenze cicliche e con una composizione favorevole al lavoro e allo sviluppo, è il presupposto di ogni politica efficace ed equa. I sacrifici compiuti per conseguire e consolidare la stabilità finanziaria rispondono a rigidità a lungo trascurate, a ritardi accumulati nel tempo. L'uscita dalla procedura di deficit eccessivo ne è un primo frutto da non dissipare. Va considerato un investimento su cui costruire. Non bisogna avere timore del futuro, del cambiamento. Non si costruisce niente sulla difesa delle rendite del proprio particolare. Si arretra tutti. Occorre consapevolezza, solidarietà, lungimiranza. Interventi e stimoli ben disegnati, anche se puntano a trasformare il Paese in un arco di tempo non breve, produrranno la fiducia che serve per decidere che già oggi vale la pena di impegnarsi, lavorare, investire. Va bene, nessuno vuole toccare il ruolo istituzionale del governatore della Banca d'Italia, dico solo, no? Se tutto deve cambiare, come dice Visco, forse anche certe relazioni possono cambiare, no? Le reazioni, ascoltiamo in rapida sequenza, perché ho pochissimo tempo, quelle del presidente dell'ABI Patuelli, dice Visco ha riconosciuto che le sofferenze delle banche non sono mai state così alte da 20 anni, e del presidente Confindustria Squinzi. Per quello che riguarda il mondo bancario, ha constatato molto giustamente i grandi cambiamenti che sono stati effettuati dalle banche operanti in Italia, soprattutto in questi ultimissimi anni, come premessa appunto per la ripresa. Una sottolineatura molto particolare, molto importante, il governatore ha posto in essere, laddove ha segnalato che sulle banche e sul credito erogato in Italia gravano delle tasse di una tipologia che non esiste in altra parte dell'Unione Europea. La priorità è il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, perché come avete visto, pure a seguito di una dichiarazione di voler dare seguito a questo pagamento, i risultati per il momento sono ancora molto modesti e soprattutto non investono l'insieme dei debiti della pubblica amministrazione, che deve oltre 100 miliardi alle imprese, e uno Stato che non paga i propri debiti non è uno Stato civile. Alle 18:08 riprende la seconda parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni, sempre in diretta da Piazza Mario Pasi a Trento per questa edizione del Festival, anche per questa edizione del Festival dell'Economia. Stavamo commentando o facendo ascoltare i passaggi principali dell'intervento del governatore della Banca d'Italia Visco per le considerazioni finali, come fa ogni anno. Tra i commenti abbiamo appena ascoltato quelli del presidente dell'ABI Patuelli e del presidente della Confindustria Squinzi, anche il leader della CGIL Susanna Camusso era presente e ha apprezzato soprattutto la parte dedicata alle difficoltà che sta attraversando la nostra economia. Credo che sia molto importante che sia stata dedicata tanta parte al ragionamento della qualità degli investimenti, qualità dell'impresa, qualità dell'istruzione, quindi dell'occupazione in particolare dei giovani, che sia stato fatto con toni che guardano al futuro e alla certezza invece che con toni che guardano alle flessibilità. Penso che si siano dette cose importanti sul sistema bancario, però il tema della restrizione del credito resta un grande problema della nostra economia. Thanks again. Altre reazioni oggi a margine dell'intervento del governatore della Banca d'Italia, Luigi Abete, presidente del gruppo bancario BNL. L'IVA a Sonime da sempre dice che bisogna lavorare non sulle aliquote massime ma sulle aliquote ridotte. La nostra posizione è che non è sbagliato aumentare l'IVA nel suo complesso, ma è dobbiamo riequilibrare le categorie all'interno del... Noi siamo l'unico paese che ha una tassazione al livello ordinario che è pari a circa il 50% del totale delle entrate IVA, mentre gli altri paesi occidentali, Francia, Germania, hanno circa i tre quarti che arrivano dall'aliquota ordinaria, cosa che è ovvio, se è ordinaria dovrebbe essere quella prevalente, mentre noi abbiamo molte esenzioni o diciamo riduzioni nelle due aliquote ridotte. Quindi la nostra proposta da sempre è aumentiamo il totale dell'IVA lavorando sulle aliquote ridotte e escludendo solo i generi effettivamente di prima necessità, perché oggi nelle aliquote ridotte ci sono molti beni o molti servizi che di prima necessità non sono. Quindi rimodulazione delle aliquote IVA per il presidente di BNL e della Sonime Abete. Alcuni di voi chiedono al 349-238-6666 se Visco ha parlato del dato drammatico di oggi sulla disoccupazione. Sì, ha fatto un riferimento anche e soprattutto quando ha citato il rischio di un venir meno della coesione sociale come effetto della recessione, ma l'intervento più importante su questo fronte è stato quello del Premier Letta. Allora riascoltiamo, per chi se lo fosse perso, l'intervento del Premier Enrico Letta proprio sul dato di oggi sulla disoccupazione. Noi metteremo in campo un piano nazionale, questo piano nazionale contro la disoccupazione giovanile lo metteremo in campo prima del Consiglio europeo, perché riteniamo che questo dia più forza all'impegno che poi in Consiglio europeo i 27 Paesi membri e la Commissione metteranno per arrivare a dei risultati concreti, positivi e immediati, non dichiarazioni generali, non impegni astratti, ma risultati concreti. E infine ho espresso tutta la soddisfazione italiana per l'uscita dell'Italia dalla procedura di deficit eccessivo che abbiamo ottenuto mercoledì scorso nelle decisioni che la Commissione europea ha preso. Per noi italiani è stato un grande risultato dovuto allo sforzo di tutti gli italiani, allo sforzo dei precedenti governi, in particolare quello presieduto da Mario Monti. È uno sforzo quello di stare dentro le regole di bilancio che continueremo con grande impegno, e quindi anche tutti gli impegni su questo tema della disoccupazione giovanile contro la quale vogliamo lottare li prenderemo dentro le regole di bilancio che ci siamo dati. In effetti i dati sono drammatici, ripeto, 3.083.000 disoccupati in questo paese, mai così alti dal 1977, da quando esiste la serie storica, con un aumento di tutta la disoccupazione a livello europeo che tocca il 12,2%, anche in questo caso nuovo record storico per la disoccupazione a livello europeo, quella giovanile a livello europeo è il 24%, ma in Italia ha toccato il 40%, con una punta di oltre il 50% nel sud del paese, anche qui inutile dirlo, record storico. E poi il rapporto tra, mi riferisco al governatore della Banca d'Italia, tra le fondazioni bancarie e le banche, le attività di vigilanza. Io un po' l'ho criticato prima il governatore su questo. Ne parliamo dopo il traffico, lo anticipiamo leggermente. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Di nuovo in diretta da Trento con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia. Dicevamo del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e il ruolo della vigilanza sulle banche. Ha detto Visco, attenzione, le banche sono stabili solo se redditizie, occorre agire sui costi. i soci delle banche rinuncino alle cedole e diluiscono le quote, e soprattutto per quello che riguarda l'attività della Banca d'Italia, la nostra vigilanza è stata incisiva e ha evitato rischi. Anche sul Monte dei Paschi i controlli sono stati corretti, impegnati e attenti, e però, in riferimento al Monte dei Paschi a mio avviso era ovvio, le fondazioni bancarie non controllino e non condizionino le scelte gestionali delle banche. Però ha poi ricordato il governatore che qua ci sono circa 20, è da 20 anni che non vedevamo le sofferenze bancarie essere così alte, cioè i crediti che diventano di difficile esigibilità. Alla fine del 2012 la consistenza dei prestiti in sofferenza è salita al 7,2% degli NPE complessivi, dal 3,4% del 2007. Quella degli altri crediti deteriorati al 6,3% dall'1,9%. Per le imprese il flusso delle nuove sofferenze in rapporto agli impieghi ha recentemente superato, su base annua e al netto di fattori stagionali, il 4%, un livello non toccato da 20 anni. In base agli indicatori prospettici, il flusso di sofferenze rimarrebbe elevato nella restante parte del 2013. E allora così il governatore della Banca d'Italia anche sul ruolo delle fondazioni bancarie, appunto non condizionino le fondazioni bancarie le scelte gestionali delle banche. Chissà se c'era qualche riferimento anche a vicende recenti, magari vicende senesi, magari Monte dei Paschi, non lo so. Non l'ha detto in maniera esplicita, mentre abbiamo ascoltato alcuni passaggi in cui il riferimento era un po' più esplicito alla vicenda Monte dei Paschi, quando Visco ha detto no, la Banca d'Italia ha fatto tutto ciò che era in suo potere fare. Ne parliamo con l'economista Luigi Zingales, che insegna a Chicago alla Woods School per imprenditoria e finanza. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Editorialista, spesso l'abbiamo avuto nostro ospite qui a Trento per partecipare a questi giorni di dibattiti, convegni e analisi sotto il grande cappello della sovranità in conflitto. Però, professor Zingales, prima di arrivare ai temi di Trento vorrei commentare l'attualità. Un ragionamento, quello del governatore Visco, che è sembrato da un lato andare verso le imprese, bisogna spezzare la spirale negativa tra credito e recessione, ma ha anche fatto notare come le sofferenze bancarie non sono mai state così alte da 20 anni a questa parte, e ha chiesto di pianificare il calo delle tasse privilegiando il lavoro. Lei si attendeva un Visco più duro sul mondo bancario? No, direi che non mi ha sorpreso nelle dichiarazioni, mi ha fatto piacere il riferimento alle fondazioni, al fatto che non debbano essere troppo influenti sulla gestione delle banche, quindi in questo mi sembra un fatto positivo. Mi ha un po' deluso che su 20 pagine di considerazioni ce ne fosse mezza sulla vigilanza. Oggi la vigilanza bancaria è il compito principale della Banca d'Italia, la politica monetaria si fa a Francoforte e Visco è uno dei tanti che contribuisce a, ma non è il suo compito principale. Fino a quando la vigilanza non sarà trasferita a Francoforte, e anche quando sarà trasferita a Francoforte comunque ci sarà uno dei compiti principali della Banca d'Italia, e avrei voluto una discussione un po' più lunga anche alla luce degli errori passati. Poi magari possono essere stati errori comprensibili, però insomma questi errori ci sono stati. Quindi le dice, se ho ben capito, siccome la Banca d'Italia ormai da quando c'è la BCE non fa più politica monetaria, lei è rimasta come tutte le banche centrali dell'area euro, però il compito di vigilare sulla sana, prudente gestione delle banche, avrebbe voluto qualche riflessione in più su questo compito finché ce l'hanno, finché non si arriva a un'unione bancaria. Tra parentesi, si discute molto anche in questi giorni a Trento di unione bancaria, e da più parti si è detto, l'ho detto Mario Draghi, l'hanno detto anche Angela Merkel, insomma, che l'Europa deve andare verso un'unione bancaria. Ma che cosa si intende, lei che cosa si immagina per un'unione bancaria europea? Beh, innanzitutto, secondo me, è importante che la vigilanza sia a livello europeo per contrastare non solo le fasi di crisi, ma le fasi di boom. Cioè, durante il periodo della bolla immobiliare spagnola, ad esempio, la banca centrale tedesca non poteva fare nulla per aumentare i coefficienti di patrimonializzazione, eccetera, delle banche spagnole. Quindi, in futuro, vogliamo che ci sia qualcuno che faccia questo. Secondo, la vigilanza è ancora, secondo me, troppo politica, e quindi per me una vigilanza a livello europeo renderebbe più difficile una influenza politica sulla vigilanza. Però in questo i tedeschi sono i primi a non comportarsi bene, perché hanno fatto in modo di tenere fuori da questa vigilanza le loro Landesbank, che sono le loro porcherie. Ecco, molto esplicito giudizio, cioè spieghiamo a tutti, in realtà il piano previsto dalla Banca Centrale Europea prevede che i grandi istituti bancari europei finiscano sotto la vigilanza della BCE e non più delle banche centrali nazionali. Uno dice bene, perché sono i più grossi, sono quelli a maggior rischio e quelli più sistemici, se a rischio sistemico se vanno male. Però attenzione, perché l'abbiamo visto in Germania, ma anche in Spagna, devo dire, sono proprio delle volte le casse, il caso Bankia è un caso clamoroso, le casse di risparmio locali riunite in un unico gruppo, che poi è stato salvato dallo Stato spagnolo e dagli aiuti europei. E lo stesso vale anche per la Germania, dove i problemi maggiori si sono avuti sulle banche del territorio, no? Assolutamente. E da questo punto di vista lei quindi propenderebbe per portare anche le banche del territorio, quelle, diciamo, che noi chiameremmo di credito cooperativo, le BCC, le casse di risparmio, sotto la vigilanza unica della BCE? Soprattutto troverei importante separare questa vigilanza dal potere politico locale, perché è lì dove in qualche modo c'è la commistione, si chiude un occhio. Quindi se noi avessimo la Banca d'Italia che vigila sulle Landesbank e la Banca Centrale Tedesca che vigila sulle nostre cooperative, sarebbe un mondo migliore. Questo per quello che riguarda la vigilanza bancaria e il ragionamento fatto dal governatore Visco. Se ho ben capito, forse un po' la sua analisi, un po' troppo autoassolutorio sul ruolo della vigilanza, un po' a volo d'uccello? No, io non direi solo autoassolutorio, secondo me è scarsamente incisivo e focalizzato su questo. Cioè, in un'istituzione in cui la vigilanza è il compito principale, io avrei voluto vedere almeno metà delle pagine della relazione dedicate alla, certo, vigilanza. Cioè, la Banca d'Italia, con tutto il rispetto, eccetera, non ha compito di fare la politica economica italiana, ma ha il compito di vigilare le banche. Mentre c'erano più pagine sul governo, sulle riforme politiche, sull'azione di governo, che sulla vigilanza bancaria. Esattamente. Sì, diciamo che Ofelè fa il tuo mestiere, dicono a Milano, ognuno resti nei suoi campi in questi casi, se il governatore Visco non si arrabbia per questa mia... Questo mio invito ci mancherebbe, ma siamo abituati che qui da noi ognuno parla di tutto il resto, anche quando sentiamo la relazione della Corte dei Conti e quant'altro. Detto questo, l'altro grosso tema oggi riguarda i dati sulla disoccupazione. Lì anche Visco è intervenuto, ha detto attenzione, occorre abbassare le tasse e puntare un aumento dell'occupazione, ma il dato sulla disoccupazione di oggi è drammatico. Dal 1977, lo dice l'Istat, non avevamo una disoccupazione, quella di aprile, al 12%, dal 77, da quando esistono le serie. Cioè, noi non sappiamo se in realtà sia il 67 o il 72 o il 58, siccome la misuriamo mensilmente dal 77, da allora non c'era mai stata una disoccupazione così alta, 3.083.000 persone, e la disoccupazione giovanile tocca il 40,5%, anche qui il massimo dal 77, con un mezzogiorno in cui ho capito che ci sarà anche lavoro nero, ma insomma il dato ufficiale è il 52,8%, e questo è un dato che spaventa tutti sostanzialmente. Devo dire che nell'Unione Europea ad aprile, anche a livello di 17 paesi, abbiamo avuto un record nella disoccupazione. Zingales, la media europea è al 12,2%, un punto in più rispetto al 2012. Allora, qui ci troviamo di fronte a 3.083.000 disoccupati in Italia, disoccupazione mai così alta delle serie storiche. L'occupazione non si crea per decreto. Come abbiamo fatto a bruciare in Italia, ma in Europa, 10 anni di invece disoccupazione in costante calo? Cioè, come mai siamo arrivati così in basso, per parafrasare un noto film? Ma purtroppo è relativamente semplice. Cioè, il costo del lavoro per unità di prodotto in Italia è molto elevato, però, come vado ripetendo, non è elevato perché il costo del lavoro sia così elevato, è elevato perché la produttività è così bassa. E quindi il nostro problema, il modo come abbiamo distrutto posti di lavoro, è non aggiornandoci, avendo una pubblica amministrazione che rema contro e rende difficile operare, e quindi avendo una produttività bassa. Se noi non rilanciamo la produttività, che si rilancia attraverso una deregolamentazione, un'entrata in nuove imprese, maggiore flessibilità, eccetera, non andiamo da nessuna parte. Sì, uno potrebbe rispondere che questo è il risultato, un peggioramento così alto, un punto percentuale in Europa e anche un punto percentuale da noi, è così alto perché abbiamo seguito politiche di austerità senza crescita. Cioè, l'occupazione non si crea per decreto, lo sappiamo tutti, però qualche defiscalizzazione sulle neoassunzioni da un lato, ma soprattutto è anche la possibilità di reinvestire, lo diciamo ogni volta, opere pubbliche anche di carattere micro locale, liberare i comuni e gli enti locali da 12 miliardi che hanno. Insomma, a me sembra abbastanza chiaro che questo sia il risultato, visto che ce l'ha solo l'Europa, di una austerità fine a se stessa. Beh, sicuramente l'austerità, riducendo almeno temporaneamente la domanda aggregata, ha un effetto negativo sull'occupazione, su questo non c'è dubbio. Il problema fondamentale però è un altro, è uno, lei ha detto come abbiamo perso 10 anni, cioè l'aumento bruciato, ha avuto, sì. Esattamente, abbiamo bruciato 10 anni, questo è il vero problema, quindi se noi avessimo una priorità maggiore anche in una fase recessiva, la disoccupazione salirebbe, ma non a livelli a cui siamo adesso. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è che noi abbiamo un debito molto pesante che dobbiamo in qualche modo, a cui dobbiamo far fronte, e non abbiamo una tradizione di spesa pubblica particolarmente efficiente. Quindi l'idea di rilanciare la crescita attraverso grandi opere pubbliche per me è una grande panzana. E piccole opere invece locali, cioè sbloccando varie opere infrastrutturali che i comuni chiedono di poter completare? Ma forse sbloccando quelle che sono già in piedi, sì, potrebbe avere una qualche funzione, ma secondo me la cosa migliore è ridurre le tasse, la gente poi i soldi li spende e la domanda riparte. Grazie al professor Luigi Zingales, e con questo augurio chiudiamo l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e alla struttura tecnica di Radio 24 per l'assistenza qui da Trento. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Comunque vada, l'augurio di un buon fine settimana. Radio 24, la passione si sente.